basta per pensare. Ho una forte immaginazione, il manuale di istruzioni l'ho perso. Cosa fare se mi innamoro? Cosa fare se mi deprimo? E intanto la mia onda sta sbattendo, e intanto un bambino sta crescendo, e intanto l'universo si sta espandendo, e intanto, oh. Mi faccio due spaghetti in bianco, le cose semplici di un tempo, e le corse con le bici, e in piazza con gli amici. Le cose semplici di un tempo, me lo diceva anche mio nonno. Fatti due spaghetti in bianco, intanto. Ho una testa per pensare, oggi non la voglio usare. Me ne vado solo al mare e non penso ai progetti di cui parlo da una vita, all'estate che è iniziata e già finita, alla spesa, alla partita, alle cazzate che mi mancano. E intanto, oh, mi faccio due spaghetti in bianco, le cose semplici di un tempo, e le corse con le bici, e in piazza con gli amici. Le cose semplici di un tempo, me lo diceva anche mio nonno. Fatti due spaghetti in bianco, intanto. E aveva sempre ragione, aveva sempre ragione. Ma fatti due spaghetti in bianco, le cose semplici in un tempo, e le corse con le bici, e in piazza con gli amici. Ed è passato un altro anno, me lo diceva anche mio nonno. Fatti due spaghetti in bianco, intanto.